Italia in controluce. È il pomeriggio dell'11 maggio e questa è la seconda edizione di Italia in controluce, del programma di Radio 24 e della nostra redazione, da me condotto e coordinato, che indaga sulla cronaca italiana. Dopo Napoli e Bologna, oggi Italia in controluce racconta le elezioni amministrative di Milano. Abbiamo scelto un tema: per Napoli erano i rifiuti, per Bologna la questione morale, per Milano le infiltrazioni delle mafie. Il racconto di Raffaella Calandra. Dite il mondo alle paese senza cor, ma Milano è un gran Milano. Noi abbiamo individuato allo Stato 15 locali: Bollate, Cormano, Bresso, Limbiate, Milano Centro, Solaro, Pioltello, Mariano Comense, Corsico, Rò, Pavia, Erba, Canzio, Legnano, Desio, Seregno. Oh mia bella Madonnina! Ad un certo punto Milano si è scoperta grande anche per le cosche, come questo elenco snocciolato dal procuratore Ilda Boccassini. Ad un certo punto la capitale economica del paese si è scoperta piazza di conquista anche delle mafie, e quello che gli investigatori già da anni ben sapevano ad un certo punto è diventato evidente a tutti, con la forza dei numeri, come i 174 arrestati solo in una volta in Lombardia e con l'urgenza di una questione da affrontare subito, visto l'avvicinarsi di Expo 2015. Anche per questo i temi della legalità entrano d'impeto e di diritto nella sfida amministrativa per le elezioni di Milano. Letizia Moratti, Manfredi Palmeri e Giuliano Pisapia, i principali sfidanti in una corsa a cui partecipano anche Giancarlo Pagliarini, Mattia Calise, Marco Mantovani, Fabrizio Montuori, Carla Di Albertis, Elisabetta Fatuzzo. È un voto questo che gli osservatori concordano nel considerare di portata politica nazionale, come lo stesso Premier ha ammesso. Il voto di domenica è importante anche per il voto politico a supporto del nostro governo. Legalità ed Expo 2015, un binomio che si declina già anche in inchieste della Procura di Milano, come il procuratore aggiunto Alberto Nobili aveva già rivelato a Storiacce. Una preoccupante apertura alle infiltrazioni mafiose nel circuito degli affari, diciamo. Non a caso la vicinanza dell'Expo 2015 crea parecchia attenzione, crea allarme. E segnali invece di tentativi di infiltrazioni già ci sono? Segnali già ci sono, sono oggetto di indagini. Io ho anche proceduto, con, secondo i miei poteri commissariali, a escludere quelle opere che presentavano l'offerta al maggior ribasso. Queste quasi sempre nascondono evasione contributiva, evasione di sicurezza sui cantieri o altre situazioni che nascondono infiltrazioni. Letizia Moratti, sindaco uscente e candidato del PDL nonché commissario per Expo, con il tema infiltrazioni ha dovuto confrontarsi politicamente da subito, ha partecipato a più dibattiti anche in tribunale sulla questione. Noi ahimè non siamo riusciti invece a rivolgerle le nostre domande per questo focus elettorale, che però ancora è stato attraversato pure dagli strascichi delle polemiche per la mancata commissione comunale antimafia, che così il primo cittadino spiegò nel 2009 ad anno zero. Il consiglio di comunale di Milano ha esaminato la possibilità di fare una commissione antimafia nell'ambito del Consiglio. Io ho dato il mio benestare, il Consiglio decide indipendentemente da quello che è poi la volontà del Sindaco, perché è il Consiglio che è il Parlamento della città. Su questo, sulla commissione antimafia, il Prefetto ci ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Comunale dicendo che non era competenza del Consiglio Comunale, essendo una competenza statale. Torno a parlare di Expo perché ovviamente mi sono preoccupata anche di questi aspetti. Quindi nel momento in cui si avviava la società Expo ho scritto alla Presidenza del Consiglio per chiedere un organismo. Oh mia bella Madonnina! Per quanto riguarda la parte organizzativa, la competenza di Expo è della società Expo. Il Comune sta lavorando perché si concretizzino i 61.000 posti di lavoro medi annui e perché si concretizzino i 20 milioni di turisti che sono stimati venire nel periodo di Expo. Stiamo lavorando per la partecipazione dei paesi a Expo e siamo orgogliosi che già oggi 28 paesi hanno deciso la loro adesione più le Nazioni Unite. Ma provenienti a Milano. Si astenne sulla commissione, marcando così la propria distanza, il presidente uscente del Consiglio, Manfredi Palmeri, ora candidato del Terzo Polo. A battersi invece per quell'organo, tra gli altri, Basilio Rizzo, ora capolista della lista civica Sinistra per Pisapia. Io ho fatto, nei 5 anni che sono stato qui in Consiglio, più convegni di fronte ai pericoli delle infiltrazioni mafiose, i più affollati che ci siano mai fatti a Palazzo Marino. A me pare che ci sia un atteggiamento della politica un po' diretto reticenza e di coda di paglia, cioè le forze che sono al governo non parlano volentieri delle infiltrazioni mafiose perché ritengono che di questo verrebbe attribuito carico a chi governa. Cioè io penso che si silenzi il pericolo, ma il pericolo venga avvertito sia a sinistra sia a destra. Expo e infiltrazioni al nord. Lo portiamo avanti con un carattere di prevenzione. Avevamo chiesto che si facesse la commissione antimafia. Nella città del Premier è simbolo anche degli scontri tra politica e giustizia, nonché spesso termometro di orientamenti nazionali. Entreranno nel voto le polemiche sulla magistratura? Pensa di no Matteo Salvini della Lega Nord. Non penso che sarà un referendum pro o contro i magistrati. La Santanchè, ad esempio, ha definito la Boccassini una metastasi. Una definizione sicuramente fuori luogo. Me le sarei risparmiate volentieri. Il discorso sull'Expo. Secondo voi il fatto che ci siano stati questi ritardi, molti dicono che potranno, diciamo, favorire un rischio infiltrazioni mafiose. Lo pensate anche voi? No, su questo devo dire che a prescindere dai ritardi organizzativi il ministro Maroni fin da subito è stato presente. C'è una lista non solo delle aziende indesiderate, ma addirittura faremo una lista, e penso sia il primo caso, delle aziende desiderate, più pulite, più trasparenti e più corrette. Al nord la mafia c'è, la mafia è fortemente presente, non è percepibile, quella che nel gergo si chiama l'aria di mafia, diciamo, qui al nord non la si respira. Però è inconcepibile, è intollerabile che si possa solo perciò dire che qui non c'è la mafia. Questo è un depistaggio. Una denuncia forte, quella di Nobili, come quella della Boccassini, che più volte ha segnalato la mancata collaborazione della città nelle indagini, come quella sull''ndrangheta che ha lambito con un'intercettazione pure un candidato del PDL. Io gli avrei chiesto un passo indietro, contrattacca Giuliano Pisapia, aspirante sindaco per il centro-sinistra. Il ritardo nel fare i bandi di gare, quindi anche nelle misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, determinerà un più facile inserimento nel contesto che porterà l'Expo. Detto questo, io spero che l'Expo diventi una vera e propria ricchezza e un volano per lo sviluppo economico e non solo economico di Milano. Pisapia, in questi giorni si è discusso molto a proposito sempre di infiltrazioni del cosiddetto caso Clemente, un'intercettazione della DDA dell''ndrangheta. Secondo lei c'è un discorso di opportunità politica oppure ha fatto bene la Moratti che, dal momento che non è stato neanche indagato, diciamo, il garantismo deve prevalere? Il garantismo significa garantire a ciascuno un equo processo e soprattutto rivendicare fino in fondo la presunzione di non colpevolezza. Ma questo riguarda l'aspetto giudiziario. L'aspetto politico è ben diverso. Quella telefonata, se chiaramente è una telefonata in cui l'interlocutore è questo Clementi, è una telefonata che fa rabbrividire e quindi che deve essere giudicata politicamente, eticamente. Però, visto che al momento non è neanche indagato, se lei lo avesse avuto nella sua lista? Gli avrei chiesto di fare un passo indietro. Veniamo ad un altro aspetto che ha a che fare con le infiltrazioni mafiose. Quest'anno i numeri delle inchieste hanno confermato la presenza soprattutto dell''ndrangheta a Milano, però i magistrati, a cominciare da Ilda Boccassini, più volte ha ricordato che le imprese non denunciano. Perché secondo lei? Purtroppo devo dire che c'è stata una sottovalutazione che è stata dimostrata in Consiglio Comunale nel fatto del non volere che fosse istituita immediatamente una commissione antimafia con effettivi poteri di controllo. Purtroppo 2 volte il prefetto di Milano ha dichiarato che la mafia a Milano non esisteva. Inchieste anche dell'Interland milanese in realtà sono abbastanza trasversali su questo aspetto. Sicuramente il contrasto alla mafia è qualcosa che non riguarda la destra o la sinistra, ma riguarda tutti. Tutti insieme dovremmo creare creare quegli anticorpi. Purtroppo si è fatto troppo poco e di questa responsabilità non chi è stata all'opposizione, ma chi è stato al governo della città. Veniamo a Berlusconi, che ha detto che lei gli sta simpatico. Ha detto anche che ha fatto un esame con suo padre. Com'era andato quell'esame? Lo sa? Lui un giorno mi ha detto che era andato molto bene. Che io gli sia simpatico mi fa piacere. A lei sta simpatico Berlusconi o no? Personalmente è una persona che sicuramente ispira simpatia. Quando però usa determinati termini, ha modalità di approccio soprattutto nei confronti delle donne, no, mi sorge un'indignazione. E se Letizia Moratti ha ballato su queste note al Palasharp dopo la convention col premier, anche Max dei Subsonica si è esibito tra gli altri in un concertone davanti alla stazione per Pisapia. Seconda edizione Italia contro luce termina qui, vi saluta Daniele Biacchiesi, cercateci su Facebook, Twitter oppure comunicate con noi via mail controluceradio24.it, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.